aspettavi stasera, perciò rimani sorpresa, cos'è? Vedo il tuo viso di cera, sconvolto e timido, dimmi perché. Oggi ti vedo più bella, sei profumata, già pronta ad uscir. Non scusarti, non dirmi più nulla, come sempre sei pronta a mentir. Per l'ultima volta ti perdona il mio cuore, per l'ultima volta sopporto il dolore. È solo il mio bene che a te ha vinto mi tiene, ma il mio bene a che vale se tu col tuo male distruggi il mio amore? Come una rosa divelta abbandonata da tutti eri tu, io nel mio cuore t'ho accolta, sapevo chi eri, non chiesi di più. Stanca eri già della vita, dal male volli redimerti allora. Tutto è vano, il tuo cuore non muta, a mentire tu seguiti ancora. Per l'ultima volta ti perdona il mio cuore, per l'ultima volta sopporto il dolore. È solo il mio bene che a te ha vinto mi tiene, ma il mio bene a che vale se tu col tuo male distruggi il mio amore? È solo il mio bene che a te ha vinto mi tiene, ma il mio bene a che vale se tu col tuo male distruggi.